Ciao! Ciao a tutti, bentornati su Radio Alma, questa è 100 città. Il vostro Jack qui presente vi chiede scusa per la settimana scorsa, ma sono stato sequestrato. Ci siamo divertiti moltissimo. Immagino, adesso mi racconterete, ma cause di forza maggiore, non ci potevo fare assolutamente niente. Quella che comincia per F e finisce per IG. Magari, molto molto peggio purtroppo. Beh, a dire vero, alla fine sono riuscito a scroccarmi una cena, quindi comunque ho vinto. Positivo, cioè, quindi comunque... Ci racconterà il menù e poi non racconterà i nostri amici. Soprattutto come l'hanno cucinato. Comunque sì, è bello mangiare a sbaffo, sponsorizzano mangiare a sbaffo il più possibile, soprattutto se si va in ristoranti che costano. C'era anche il vino incluso nel... Le birre, beh, siamo in Belgio, dunque sì, tutto incluso, anche con dolce. Ottimo, è gratis? Tutto gratis, campione del mondo, una meraviglia. Una cosa fatta bene, eh? Esatto. Chi pagava, il contribuente? L'azienda. Ah, bene. Bene, queste 100 città, siamo a giovedì 4 marzo, sì. Record 2010, 4 giornate di sole a Bruxelles, addirittura, vedo che sono caduti i capelli. Io credo, sono un pochino ancora, diciamo, sbalestrato perché siamo partiti in orario per la prima volta. Quindi comunque insomma, è una grande... È il sole che dà l'energia. Mi dà proprio la testa. Stamattina mi sono svegliato, ero così pieno di vita. Cazzo, veramente. Mi saltellavo a destra e a sinistra. Salutiamo belli capelli dall'altra parte dello specchio. Ciao, ciao ragazzi. Come stai? Benissimo. Sei tu che emani questi odori di ragù per tutta no, la casa? No, è tuo caro amico Francesco. Ah, è lui. Si è fatto un bagno prima di venire. Sì, saluto la mia mamma e mio papà che mi stanno facendo 2 chili di ragù. Grandi, sono persone che meritano veramente non solo rispetto, ma anche la mia ugola. Non so perché la mia casa sembra più pulita. Non so perché. Vedi, queste sono le strane coincidenze della vita. Fra un giorno si entra in casa la madre, e il giorno dopo la casa non è più porcile che lo è per me. Non senti più, sai, la polverina e le briciole quando cammini? Non le senti più, non so come mai, ma è proprio tutto scomparso. Immagino che ti sembravi sperso nella tua stessa abitazione. Ma sì, è così grande, non lo so, non mi ci ritrovo, non so. E hanno portato delle leccornie da Parma? Hanno portato, sì, hanno fatto un po' di cicciolata, perché non so se... No, io non so cosa sia la cicciolata. È praticamente quello che resta del maiale pressato e bollito, cioè per bollito, pressato e con delle foglie d'alloro. Se è bollito diventa mortadella, se è semplicemente pressato invece diventa cicciolata. Ah, ho capito. E a volte quando la mastichi c'è anche tipo delle parti di Perugia. Sì, l'ho assaggiato, è un affettato fondamentalmente. È un affettato. Buono. Poi ho provato la coppa, anzi la bondiola, che è una cosa un po' diversa dalla coppa, che c'è solo da Parma, dicono. La bondiola? È vero che in dialetto parmigiano coppa si dice bondiola e non Ah, ma cos'è, un parente della coppa, del colatello? È un parente della coppa, sì. Non mi chiede dettagli perché... Vabbè, i tuoi genitori saranno così gentili da ospitarmi stasera a casa. Loro sì, ma io no. Vabbè, mangi solo io, tu puoi star fuori. Tanto il balcone. Dall'odore mi sembra che tu abbia già abbastanza abusato dei tuoi genitori. Fai un po' abusare anche me. E poi naturalmente un bel salame grosso, così adesso i salami grossi in casa sono due. Come sei simpatico. Che umorista fine. Ma a proposito di finezza, qua abbiamo un rappresentante di una delle regioni più fini d'Italia. Sì, finalmente si parla un po' di figa. Finalmente si parla con gente di classe. Io tra l'altro, allora cominciamo con il nome. Lorenzo. Da dove? La rotta. Già questa. La rotta dove? La rotta in culo. Sì, che questa è la classica battuta. Infatti non sono stato il primo. No, è in pratica sarebbe una frazione di Pontedera, che è un comune di Pisa. Ma ha giocato anche lì nel Pontedera, chiaro che lo conosciamo. Andava anche in tiro là. Pontedera ha battuto la nazionale. Ha battuto la nazionale, di buono. Pontedera ha battuto tra noi, ce la facciamo anche noi. Con la Riga, nel 94. Che... Sì. E, tra l'altro io sapevo già chiaramente da dove il nostro ospite. Dunque un pisano abbiamo. Rottigiano. Facciamo pisano, che è meglio. Ma io ho una domanda. Dire che li odiate pure voi i pisani, perché non ci credo. Ma i pisani penso che li odiano tutto il mondo, cioè pure voi che siete in provincia di Pisa. Sì, sì, soprattutto loro. Pensa a te, questo è allucinante. Toscani, non lo dite, perché se quando vado a Pisa se no sono finito. Guarda che noi arriviamo anche in Italia, abbiamo una vastissima audience, soprattutto italiana, soprattutto a Pisa. Abbiamo il 100 città fans club, che è proprio Pisa, con il nostro sito, il nostro blog, che è radiona.blogspot.be No, punto com. D'accordo, ma bravissimo, sei quasi arrivato. Com, è tutto sto sole che mi dà la testa, è sì, come l'alcol, uguale. E poi mi sa che sia tipo slash search, slash label, slash centocittà. Centocittà, comunque centocittà lo cercatelo, è in onda il post sul duo canadese Benito Brot. Perché Benito grazie alla, a Belli Capelli dall'altra parte dello specchio che ci fa questi meravigliosissimi post. Straordinario, veramente, straordinario. Arte il post. Esatto, ma tu, Fra, perché non sei andato dal suo parrucchiere comunque? Cioè, io sì, non ho avuto fatto. La ragazza, secondo me, in casa. Se ti becca a fianco lui, ti molla di troppo. Chiunque mi mollerebbe a fianco di. Io te lo dico subito. Io tra l'altro, stasera io non volevo, ero lì per non venire. Nel senso che no. Hanno assunto, assunto 20 stagiaire nella nostra. 20? Una ventina, sì. Quella Madonna, ma sì, sono più di voi. Tutte donne, tutte selezionate con grandissima cura, del dettaglio. Chi è il vostro capo? Presidente del consiglio? Eh? Una ragazza, è un igienista dentale, la ce l'avete? Io sono io guardo solo il mio schermi, non guardo niente, ok, guardo solo il mio schermo, non parlo con nessuno, perché tu non ti immagini la tensione, la pressione che c'è ogni giorno con questi stacchi di cosce, veramente c'è una che salta in 1,90 una tedesca, una biondona, e allora diceva, ah, vieni anche tu a bere qualcosa, io non posso, andando via così parlando in basso per non c'è dover... il capo a casa che mi aspetta, a casa c'è il capo che mi aspetta. Io a proposito di, visto che cominciamo, visto che parliamo di rottame, parliamo un po' di figa, parliamo un po' di figa. Io volevo fare subito una domanda per entrare un po' in tema. Cosa, immaginiamo che tu sei di Pisa, non cosa ragazzi. Si prova a essere rappresentati da una cosa che pende? Che sia. Questa è una domanda, cioè pensando che tu Giacomo non questa, è molto solo io, questa è molto interessante, hai ragione, è quasi sociologica. Sì, ma diciamo che anche credo che la maggioranza di noi anche pende proprio il membro, diciamo. Il membro. Pende, sì, pende sempre. Sì, sì. Proprio... Sempre pendente. Più a sinistra, diciamo, però pende. Però più a sinistra, quello ho risaputo. La vostra pendenza a sinistra è abbastanza nota. Quindi la potrebbero avere fatta, questa è una rivelazione straordinaria, archeologica, di importanza mondiale, quindi potrebbero averla fatta sul modello... La torre pende a sinistra. Attenzione, dipende da che parte la guardia. Sì. Davanti a sinistra, sì. Avanti a sinistra. Quindi potrebbe essere stata clamorosa. Clamoroso. Essere stata fatta sul modello dei disagi. Hanno eretto questo monumento a se stessi. Pensa un po'. Queste sono le cose interessanti, gli aneddoti veri di questo. Salviamo la verità, riscopriamo la verità, riscopriamola. Ma parliamo un po' di questa rotta. Come hai detto che si chiama? La rotta. Attaccato? La rotta. No, staccato. Ah, certo, staccato. Perché sia ben chiaro che è rotta. Dov'è? Sulla parla un po' di questo locus amenus del Pisano. Diciamo su lungo fiume Arno. Fra Firenze. Ah, beh, è un posto quindi che profuma di... Il palumbe proprio. Esatto. Il 66 anche voi come i fiorentini fate uso di sostanze che poi finiscono nell'Arno fanno diventare l'Arno il fiume più pieno di cocaina anche peggio guarda che è pieno di cocaina perché ce lo buttano da cominciare da dove quindi va a Firenze nei fiorentini Firenze è fatti come bene leggi la fisica forse loro si sciottano là fanno fare la gita quando cocaina gratis fanno come per il sale la mettono nel pentolino e poi tutta l'acqua rimane la cocaina sul fondo. Esatto. Una bella immagine del paese dei rottami. Rottami mi chiamano rottigiani. Ti ascolta nessuno a casa? Questa fortuna che qualcuno di la rotta qui a Bruxelles ci sta ascoltando. Saranno tipo due nel mondo. No. Questa è una grande comunità. 2000 ho sbagliato di 3-0. Quante persone sopra i 65 anni? 2001. Sì, 1999. Una cosa del genere. Florido paesino tipico italiano. Innanzitutto vorrei solo anche innanzitutto ringraziare il nostro ospite perché aveva minacciato di venire con l'amorosa. Non ci invece neanche la... provare a lontano. Quale è partita stamattina? Guarda, se non fosse partita avremmo tenuta comunque non qua a guardarti ma fuori al freddo. Fuori al freddo. Come punizione. Era buona però. Se era buona facciamo cambio ovviamente. Stava con Giulio. Lui fuori al freddo e la tipa qua dentro con noi a fare il test soliti quelli che facciamo. I nostri provini. È un igienista dentale la tua ragazza? No. Giacomo. Ultimamente non è candidata, non mangia panini, non si dimentica liste elettorali. No. Niente. Poi scommettiamo, cioè, quale cosa fanno? No, scommettiamo. No, scommettiamo che cambiano la Costituzione di una settimana. Vinta, ma si potranno presentare. Cosa faranno? Allora, un decreto. Perde comunque, in Lombardia perde lo stesso, anche se si presenta da solo quello lì. Ci mettono sul fuoco. La battuta del PD, i formigoni e i polverini fuori, per il PD sarà ancora più dura a perdere. Sì, quello non è un problema. Esatto, sì, vabbè. Esatto. No, la vedo male. No, cosa faranno? Faranno un decreto? Sì, cosa faranno? Decreto legislativo d'urgenza. Tanto l'hanno già fatto nel 90, cosa, 95, credo. Ah, sì? Tu hai la memoria così lunga. No, Scalfaro firmò un decreto di, lo fece il governo Dini, quindi il 94. Decreto salva Panino? No, era, sì, era un decreto che appunto ritardò le elezioni di una settimana, quindi fece la campagna elettorale di 3 settimane invece di un mese, e appunto perché ci sono stati dei problemi per quanto riguarda soprattutto i simboli, perché all'epoca, sai, molti simboli cambiarono, certo, e quindi ci sono problemi di simboli, e quindi diede una settimana in più, e quindi come sempre il nostro potrebbe prenderlo a, l'hanno già fatto loro, adesso lo faccio sempre anch'io. Esatto, ma io spero che cambino la Costituzione direttamente a questo punto. Sarà, perché non fare il listone fascista di 100 nomi una volta, il bel 25, che quello sì, che il Benito ne sapeva, no? E non quello della Benito Band. Quello vero. Alla fine è stato al governo per 21 anni. Quindi... Al nord anche di più. No, il governo suo parte nel 22, finisce nel 43. In tutti al nord finiva al 45. Beh, no, il fascismo è caduto nel 43. Beh, in metà Italia, poi c'era la Repubblica Sociale al nord. Ma miei nonni se il fascismo era finito nel 43. Ma la Repubblica Sociale non era mica l'Italia, era una schifezza. Era comunque, c'era, comandava ancora lui comunque. Sì, più o meno, voglio spiegare ad Adolf quanto comandava lui. Ma noi non dobbiamo parlare di Pisa. Infatti, sapete queste boiate qua, parliamo di Pisa, no, parliamo di Rotta. Perché un tipo da Bruxelles, che vive a Bruxelles, cioè prima te la faccio raccontare la domanda, poi mi risponderai anche perché è un rottano, rottingiano. Rottigiano, etimologia. Scusate, quella è la domanda troppo ovvia, perché un rottigiano viene qua a Bruxelles, ma perché invece un tipo di Bruxelles dovrebbe venire in vacanza a Rotta? Non dovrebbe venire in vacanza. Quindi tu non mi promuovi il tuo bel no, paesino. Ha ragione, lo diciamo anche prima. No, beh, è anche utile dire non andare in questo posto. È così bella, ci sono molti posti, non venire alla Rotta. Perché non dovrebbe, a sto punto? Di solito noi facciamo domanda perché dovrebbe venire, perché non dovrebbe venire a sto punto? Ma sai che fa così cagare? No, vabbè, nel senso, se vuole venire per venire in Toscana. Cioè, ci sono quei tipo quei ristoranti le case mangiano... costerebbero anche meno la Rotta. Ecco, comprate casa a Rotta e andate a lavorare a Pisa. Un affitto. Affittare. Ma ci sono quei ristoranti dove si mangia molto e si spende poco? Gli agriturismi, vabbè. Perché da noi in Emilia il turismo... Quanto? È un business. Paga molto. Paghi tu. Pago io, sì. Loro sì. No, da noi ci sono sempre quei posti che comunque con... 15-16 euro te la cavi. Vabbè, ma poi mangi sempre cose leggerine, tipo certo. Cinghiale, cinghiale, cervo. Cinghiale vivo. Sì. Ma invece c'è qualche monumento interessante, qualche cosa, c'è una storia questa Rotta, perché si chiama Rotta? Perché comunque chiamarla la Rotta. Cioè la Rotta, cioè la guida, no, magari tipo la direzione, la strada da seguire. Bravo, hai studiato. No, in pratica perché appunto siamo sull'Arno e una delle teorie è proprio questa, che una volta, un tempo fa, l'Arno ha straripato proprio in quel punto, l'hanno chiamata la Rotta, perché la Rotta dove l'Arno ha straripato. Ah. Quindi quando l'Arno si è ritirato ha costruito un paesino. Sì, no, nel caso succede ancora, almeno ci muore anche qualcuno. È inutile che ci siano le stragi, cioè è inutile che l'Arno stradipi se non muore nessuno. Infatti ci hanno detto, è stradipato, bene, facciamoci un paese. Tra l'altro non gli è andata neanche troppo bene, perché 2000 persone non è che ne ammazza un granché alla fine della fiera. Però comunque sono sempre una bella bomba intelligente. Sì, sono sempre una bella bomba. Vabbè, ci abbiamo le colline, ci si rifugia nei boschi. Con i cinghiali che però pasteggeranno su di voi a quel punto. La possibilità di vendicarsi. Parliamo di attualità, perché sei a Bruxelles, considerato che la tua morosa che noi salutiamo è in Italia? Che è appena partita. Vabbè, sto facendo uno stage. Strano. Quale? Che numero? Primo, secondo, terzo? A Bruxelles il secondo. Ottimo. Però ne avevo fatto un altro a Malta, più interessante. Ah, diciamo. A Malta? Il mare. Cazzo, ma perché hai lasciato Malta? Fra l'altro è lì dove ho incontrato la mia morosa. Amore, ma è di la Rotta, cioè, non è della Rotta, evidentemente. No, è proprio Calabria. Calabria. Cos'è? Attento. Attenzione a fare sgarbi che poi... Ha già presentato oggi. No, Cosenza è sempre zona... Diciamo, vogliamo scommetterci, non vuoi provare? Ma dai, non avere il coraggio di dirlo, diciamo, esatto. Sì, insomma, sopra il po'. Si vede un po' meno, dai. Sopra il po'. Ma poi non ci siete voi, meno male, perché oggi ci separa la... Esatto, voi finalmente tornate in Serie B, così la chiudiamo qua. Guarda che questa vittoria è straordinaria. Sta gita scolastica. Abbiamo sette punti dalla zona della salvezza. Io fossi in te, inizierei già a cagarmi addosso. No, io sono tranquillo. Sì. Fini conti, abbiamo pareggiato con l'Inter. Abbiamo la Toscana che va in B di sicuro e io spatterò delle bottiglie perché odio il Siena. Con tutto il rispetto speriamo di aiutarlo, di aiutare il Siena ad andare in B già da domenica. Siena Parma. Dai. Ah, indovina. Pisa? No. Ah, però è sempre nell'azzurro. Oh, bravo. L'Atalanta l'ho di sicuro. Quindi è finalmente la persona che ci capisce di calcio. Ma perché? Perché? Cosa sa l'Inter? Quando sei nato? Ma l'Inter non vince da 20 anni. Non puoi dire, ma ero piccolo, l'Inter vinceva, mi sono affezionato. Appunto, è più bello perché ho sofferto fino ad ora. Finalmente raccolgo. Adesso... Ma raccogli solo perché gli altri sono andati in Serie B perché ce l'ha fatta in Serie sportiva. Perché, no, perché rubavano e sono andati in Serie B, non perché sono andati in Serie B. Lo scudetto degli onesti. Non perché sono andati in Serie B per gita così, perché si divertivano ad andare in Serie B, nel senso non ci siamo andati nessuno, neanche Scaglia ci finisce in carcere se non ha rubato. La memoria dell'Italia è corta, chi è sto Scaglia? Amministratore di un'aziendulco microscopica che fa delle cose inutili. Fantastica. E quindi hai visto anche l'Inter da Divo di recente? Quando magari viene giù a giocare con la Fiorentina? No, l'ho vista a San Siro l'ultima volta. A me manca San Siro. Abbiamo veramente un tifoso molto appassionato. Che ci vuoi fare? Siamo qua. E ti porti io tipo il Tupperware con la salsiccia di cinghiale, con lo stufato di cervo, oppure il panino con la finocchia, una cosa di più leggera? Toscano allo stadio a Milano. Si mette tipo il fazzoletto sulle gambe e via. No, però un fiasco di vino lo porti. Quello con la retina attorno, tipo. Sì, c'è freddo al nord, c'è la nebbia. No, ma torniamo sul fatto che cazzo ci fai qua? Fai uno stage, detto, dove lavori? È uno stage, già vuoi dire dove lavora? Se vuole, lo dici, se non vuole, può sempre glissare. Che fai? Una lobby per l'energia. Una lobby per l'energia. Beh, sì. Siete compare, anche tu fai la lobby. Una lobby per l'energia. Tu c'è una lobby, no? Beh, ce ne sono giusto un paio qua, nelle Eni. Giusto un paio. Sì, volendo, potenzialmente. Interessante. Sì. Beh, almeno non è coinvolto in telefonate, scandalo e robe varie, no? Cioè, non ancora. Non ancora. Ma com'è la decisione di venire a Bruxelles? Che ti mancava? Mancava Malta, però. Suicida. Hai lasciato un'isola col sole e il mare per venire qua. È una donna che chiamava per venire qua. Esatto. Lei è ancora Malta? No, tornata a casa. E viene qua a trovarti? Spero di sì. Appena venuta a trovarti, quindi, insomma, la aspettiamo. Adesso tocca a te. No, lei ora è fatto uno stage al Parlamento. Ah, ok. Quindi se vi siete conosciuti, siete venuti qui insieme. Che romantico. Carino. No, io sono arrivato più tardi, diciamo. Quindi sono venuto qui per lei. Sì, diciamo. I suoi genitori li ha già conosciuti? Assolutamente no. Ah, meno male. Scusa quello che dice te. È di Cosenza, zio. Ciao, comunque, come si chiama? Mi si chiama? Rossella. Ciao, Rossella. Ciao, Rossella. Quando gli altri mi vissi. La prossima volta, esatto. La prossima volta che vieni qua, vieni solo mi tu. Mi raccomando, sì, dai. Porta delle amiche. Ti aspettiamo. Porta delle amiche. Ti aspettiamo qua. Senti, allora, quindi sei venuto... Comunque non ci hai detto per quale motivo hai mollato Malta, a parte la fidanzata che mi sembra una ragione, ma non può essere quella vera, perché non molli un'isola col sole e il mare per un posto dove c'è la neve 50 giorni all'anno. Tu l'hai fatto lo stesso? No, infatti la mia ragazza non vive qua. Io ho lasciato il terzo mondo perché è un paese... È Milano! È un paese a forma di stivale per venire in un paese che è il secondo, primo no, però più o meno. No, beh, viva il Belgio, grande Belgio, gli vogliamo tutti bene. Insomma, ho mollato Malta perché non avevo lavoro. quindi dici vieni in Belgio almeno trovi lavoro, giusto, beh, e invece no, trovi lo stage, sì, è un ragionamento da 2010 sì. Molto da 2009-2010 in cui 2011-2012 sì, la crisi va avanti anche 2014, prepariamoci, aspettiamo la prossima Commissione Europea, non so. Che facevi a Malta? Un Leonardo ho fatto in pratica. Oh, io veramente chapeau a questi che vanno a fare i Leonardo e gli Erasmus in tutti i paesi, a Malta, o quei professionisti, che io ho visto uno, quello davanti a me che ha consegnato per l'Erasmus. Allora aveva tre scelte: Lituania, Ucraina e Romania. Cioè, sono professionisti del pulito, questi sono professionisti, chapeau, ragazzi. Lo fanno apposta, sì, sì, gente che dice, allora, dove c'è il mignottamento più alto? Allora, anche se come in università, ancora non mi preoccupate. Veramente incredibile, grandissimo, straordinario. Noi ci sono capitato in pratica. Ah. Nel senso, ho fatto la domanda, mi avevano anche rifiutato. E invece? Poi due giorni prima mi hanno chiamato e mi hanno detto, guarda, sei liberato un posto, se vuoi venire domattina... Parti con lei. No, presentami fuori, domani l'altro parti. È andata così. Così. Sì. Fantastico. E la tua attuale ragazza era tua collega sul lavoro? No, anche lei ha fatto Leonardo, però un altro tipo di stage. Com'è sta Malta? Com'è sta Malta? Io non sono mai stato. Sta alla Valletta, anche il Parma ha fatto una tournée a Malta l'inverno scorso. A vendere prosciutti. No, una tournée di calcio, abbiamo stravinto il triangolare di Malta. Quasi ci vinco anch'io. quasi ci vinco anch'io. Valletta e Hibernians. Tra l'altro quando ci sono andato io era venuta la Juventus a Malta. Qualche uovo, qualche arancia. Qualche lima. Ero lì per farlo. Avresti dovuto. Però ho visto una scena bellissima, questa la raccontavo. Loro perdere contro una squadra di dilettanti, l'ho visto spesso ultimamente. No, perché c'è un giocatore che particolarmente amo della Juventus, che non so se anche te, le Grottaglie. Madonna. In pratica c'era questa mia amica che... Lei è per l'Inter, no? Quello è anche il nazionale. Però voleva salutare Del Piero, no? C'era le Grottaglie che era accanto a Del Piero. Alessandro Del Piero merita rispetto. Dove l'avversario comunque. Dove la sua passera a parlare. Vabbè, però comunque un giocatore vero, una bandiera. Quindi questa ha bussato al finestrino dell'autobus e ha chiamato le Grottaglie. Lui si è girato. La sua espressione da Salvatore. Sì, no, Gesù. Non te, quello di fianco. No, Pirla, spostati. Voglio quello forte. Non te, idiota. Ecco sì. Togliti dal finestrino che mi oscuri del piede. Questa è una gran bella gag, esatto. Vai via, tu vai giù a spingere l'autobus, cretino. Ehi, lei, magazziniera, mi chiama Del Piero, per favore. Esatto, lei cosa fa? Raccattapalle, scusi, no? Perché lei segue sempre la Juve, cos'è? Il team manager? Esatto, ma qual è la sua funzione? Prete? Prete, eccolo lì. Le Grottaglie la faccio da prete. Che cosa fa? Gioca ancora la Juve, le Grottaglie? Certo. Se no non giocherebbe in nazionale. Appunto, devo capirlo subito. Esatto, non c'è, bello che è anche in panchina la Juve, però in nazionale è titolare. Su quelle è giocato titolare? Bello belli i capelli? Li ha messi male. Sì, tu vedi degli altri perché sei gobbo, quindi. Che siete messi male, poveri. Parlavo della nazionale. Sì. Cosa ha fatto ieri Giacomo? Tu che so che segui il calcio. Noiosissimo e boriosissimo 0-0 contro il Camerun, una squadra i Leoni d'Arte. Esatto. Non hanno fatto neanche un tiro in porta loro. Noi sì, però. È come la Juve contro il Parma, però la Juve ha vinto 2-1, come mai? Perché la nazionale gli manca quel culo che c'ha la Juventus, che prima o poi avrà, speriamo, ma nei momenti giusti, finché vince la Michele non frega niente. Aspettiamo momenti più floridi. E quindi gli auguriamo a tutti e i loro tifosi momenti più floridi, ma segretamente speriamo che tornino in Serie B, ci restino per un po', insomma. Beh, la Juve decisamente, ma comunque vederla, sinceramente mi dà più soddisfazione vederla arrancare in Serie A che vincere in Serie B. Anche se pareggiare con Rimini e perdere col Frosinone sono sempre dei grandi soddisfazioni. Quello è vero, è da dire. Beh, la marcia trionfale, sì, però comunque insomma. Comunque vederli perdere contro il Palermo è stato divertente. Anche quello. E allora, Bruxelles, quanto tempo sei a Bruxelles, Verenz? Un anno in pratica. Un anno? Sì. Scorso febbraio. Quindi hai fatto. Ah, vabbè, però ho fatto diciamo una pausa di 3 mesi d'Italia, quindi 3-4 mesi. Tranquillo, insomma. Sì. Eri a casa dell'amorosa, eri a casa... No. Ma i rispettivi genitori sanno di questa storia o la scopriranno adesso attraverso i nostri microfoni? Esatto, la stiamo buttando noi. in realtà, ma forse in... la scopriranno questi in realtà microfoni. Anche la sua amante sta scoprendo adesso che lui ha una fidanzata. Ecco dove cazzo eri. Era quello che bussava fuori dalla finestra. Maledetto. Maledetto. Ecco perché c'è scomparso in questa settimana. Non sei la sua tipa, la sua tipa pisana. La pisana. La sua tipa della rotta. Della rotta. La rotta. Ora la puoi fare la battuta. La rotta. La rotta è cool. Esatto. Va benissimo. Meglio di così. Senti, ma si dice. È un paese bellissimo. Io ci voglio andare. Voglio farmi una foto di fronte col pollice alzato. Esatto, meraviglia. Mandaci una foto. C'è la foto tua della rotta con certo, così la mettiamo sul sito. Che siamo in terra, no? Che poi la rotta viene bene anche se togli il gambino della R, no? Sì. Viene la potta. La potta. Quindi, che sarebbe la potta? La figa. Che strano che parliamo un po' di figa. C'è anche la botta. Anche la botta. Alla botta gli dai una botta. Cioè, è tutto un purpurì. Ma parliamo un po' di figa allora, come ti pare Bruxelles? Cioè è difficile resistere, cioè... No, ma lui è fidanzato, certo, è romanzo, dai. Cioè, ma non si è il lavoro da casa, quindi... È vero, un professionista anche lui, eh. giustamente. E anche tu hai questi 20 stagiaire che ti infestano l'ufficio e con i quali è difficilissimo lavorare, o sei più fortunato di me? Ora assolutamente no. Sei più fortunato di me, meno male. Beato te. Meglio non indurre in tentazione. No, è difficile veramente, io sto passando dei momenti terribili, voi non vi immaginate. No, ma posso capire. Voi non immaginate cos'è. Io pranzo in Parlamento spesso e posso capire. È terribile. La sensazione di frustrazione. Sì. Sono fastidiosi. È una cosa terribile. Ma infatti aboliamo tutte queste gambe in giro, basta. Poi non è ancora, pensa quando sarà estate, le minigonne senza calze. No. Il Parlamento è il peggior posto. Peggior posto. Per noi uomini fidanzati è veramente ancora angosciante. Cioè, se non sei fidanzato è una gioia. Mica tanto perché comunque sei sempre uno sfigato. Se non c'hai il macchinone. È sempre uno sfigato. Se non c'hai la posta con ec.euro.eu, europar.euro.eu, mi sa esatto. Comunque rimani l'ultimo della lista. Perché potevo fare per avere un lavoro. Però puoi sognare. Sì. Invece, cioè, per quanto mi riguarda, io ci metterei una bomba. Ora. Tra l'altro potresti farlo perché non fa nessun metal detector fino all'entrata, quindi c'è tutta quella hold, esatto, di resto, non ti controlla nessuno. Puoi uccidere un sacco quindi di gente. Comunque puoi metterla lì, andare fuori un attimo, tanto ti riprendono, ma chi se ne frega, ormai la bomba l'hai messa. Quindi... Esatto, ormai sono belli che andati. Beh, quasi, speriamo di non aver dato una buona idea a qualche futuro terrorista. Speriamo di no, ma per parlare ce l'avranno già avuta. Se... No, c'ho degli amici, ci terrei, solo per quello intendo. No? Non per il Parlamento, sì. No, il Parlamento è un bel edificio. Sì, mi sei mai entrato? Sì, poi ci ho lavorato qualche mese. È carino. Sì, ero nella Torre del Male, al piano 15. La Torre del Male sta soltanto a Milano 3. Di Mordor. La Torre di Mediaset. Ha fatto la missione o...? No, sembra un fungo atomico. Senti, Rottigiano... tu hai vissuto tutta la vita a Rotta o hai fatto gli studi? Beh, a Rotta ci sarà l'università, il liceo, ovviamente tutto, cioè un professore, un iscritto. Allora cambiamo da solo che si fa professore iscritto, no? Esatto. Non copiare dal compagno, ma non c'è nessuno. Cazzo, si chiede solo: posso avere la riduzione delle tasse? Ma no, insomma, quante volte te lo devo dire? Ma no, su viene meno un 5%. No, non posso. Proprio cambia lato della scrivania, sta schizofrenia terribile. Deve essere straordinaria. Lo conosci, parla. No, in pratica sono stato parecchio alla rotta fino a 25 anni, 26, diciamo. Oh, e dove studiavi? Pisa. Ah, beh, Pisa, la normale, Sant'Anna. L'università di Pisa. L'università di Pisa. Vabbè, quella comunque è un ragazzo di università, un ragazzo con studi, insomma. Sì. Vabbè, bravo. Vorrei anche vedere. Noi solo il meglio, per esatto, no. Cioè... Quindi faceva venire da Pisa e ti avevi una grande... queste radici, tu hai molte radici nella rotta, sei rottigiano doc. Ma anche no, visto anche che siamo venuti via. Stiamo un po' dimigrando questa la rotta, mentre me è sempre più simpatico questo posto. Io non vedo l'ora di andare. Io voglio andare. Allora, andiamo alla rotta? Andiamo alla rotta e ci andiamo, vi dico anche io quando. Vai. Agosto. Vai. E andiamo alla fiera dei fischi e delle campanelle. Questa notizia mi ha dato i brividi, direi di fare uno stacco musicale, ci chiamiamo e poi ne parliamo. Cazzo, che emozione, veramente, vai. Voilà, bentornati, Radio Alma, 20:30, giovedì 4 giugno, 100 città, Jack Fra e un rottame, un rottano, rottingiano, un rottigiano? Rottigiano. Voce squillante già. Rottigiano, è il sole, te l'ho detto, è il sole, uè. Amici ascoltatori. Benvenuti. Allora, eravamo rimasti alla fiera, dei fischi. Dei fischietti? Dei fischi dei fischioni. Ecco, una tristezza. Come una tristezza? Invece sarà una roba bellissima. Noi anticipiamo che comunque Cento Città sarà in diretta a coprire le esatto, io vado di sicuro. Sicuramente. Non se ne pare neanche. Penso allora, che l'apice è la tombola finale. Stica! Ma andiamo con ordine. Quando nasce e perché? Soprattutto perché, esatto. Senti, non so perché 2 o 3 anni fa hanno messo un cartello. Ah, non è una festa rionale antica? No, sì, hanno messo un cartello con scritto 100° anniversario. No. Io mi ricordo fino a 3-4 anni fa. Vabbè, te credo, mi sembra che non li porti 100 anni sulle spalle. No, non lo so, quindi, perché no. Comunque. E quindi cosa queste cosa fai? Tutti quanti con i fischietti e i campanelli? No, quello è solo il nome. Si mangiano fischietti e campanelli? No, si mangiano i bomboloni. Bello. No, buono. Ma questi fischietti e campanelli che cazzo? Perché? Non lo so. Perché si fa in questa festa? Quando è? Ma cazzo, hai una cosa, siete in 2000, ma questa storia dovreste saperla tutti, a memoria. Con ordine, allora, quando è? Settembre. Ma lui ha detto agosto, ma ha detto, ma no, a settembre. Agosto. Wikipedia dice dal 1907. Wikipedia dice cazzata. Wikipedia anche una pagina verificata. Ah, scusami, visto che mi fido molto più di te che di lui, dimmi un po' perché fischi e fischioni e fischietti. Non lo dice. Per questo c'è il nostro ospite, ma non lo so. Lo vedo. Allora, perché fischi e fischietti? Boh. Non si sa. Ma non è vero che non si sa. Si mangiano i bomboloni. Si sa di sicuro. C'è la sagra del cinghiale perché si mangia il cinghiale. Quella di Ari Special. È la festa di Santa Caterina di Valfurva lì, perché c'era la santa di turno. Se invece c'è fischi e fischioni, tirati fischioni, non so. Vabbè, forse si fumano, quello sì. Forse si fuma, fumato un sacco di canne. Per 100 anni. Che lo fa la il primo paese antiproibizionista d'Italia, il primo paese pannelliano. E quindi, insomma, grande festa. Quanto dura questa festa popolare, straordinaria, mangiare bomboloni, dei fischioni? Un giorno? Un giorno. Beh, però è intensissimo, vengono da tutta la provincia. In realtà una settimana, però poi... La festa è un giorno, una domenica. Quella con la tombola? Quella con la tombola. E attira turisti da tutto il globo. Immagino sarà... Sai quante svedesi nude? Piena di fie così, però... La popolazione raddoppierà, ma che dico, triplicherà nel giro di una settimana. È tipo carnevale a Rio. So tutto. Vai. Allora, l'anno scorso è stata effettivamente in settembre. Allora va bene, va bene. Lui ci è andato una volta solo. Comunque vorrei dire che comunque lui ha azzeccato anche un'altra cosa, che diceva 2 o 3 anni fa era il 100° anniversario, infatti nel 1907, quindi giusto. Ci sta. E domenica hanno fatto la cottura dei mattoni in un forno artigianale. Che storia. Con esperti per rispondere a tutte le vostre curiosità. Che storia. Guarda, questa è una cosa artigianale che non si fa più da nessuna parte. Solo la rotta. Solo la rotta, si mantengono le tradizioni. Bravi artigiani. Hai rotto il tuo cellulare. Sì, il periodo di dire rotta. E c'è un piatto tipico alla rotta? I mattoni. I mattoni con sale, un po' di pepe, un po' d'olio, sai, un po' duri da digerire, però comunque ne vale la pena. Si insuppano un po' nel lardo, poi non dormi tutta la notte. Effetti speciali, altro che Red Bull. Allora, piatto tipico della rotta? C'è un piatto tipico? Piatti tipici, diciamo, sono i soliti, diciamo, della tradizione toscana. Ossia. Allora, prima parlavamo di cinghiale con le olive, penso. Allora, noi ricordiamo. Allora, a questo punto direi che partiamo col jingle. Benvenuto nel nostro angolo della cucina. Bellissimo. Hai visto la bella gag? A noi prima o poi ci prendono la prova del cuoco. Questa è una grande gag. Ed è venuta così per caso, abbiamo incominciato a farlo per caso. No. Non perché stiamo diventando pazzi. La facciamo con tutti. Sì. E la gente cambia espressione. No. Quindi la domanda è, cosa cucineresti a una tipa per portartela a letto prima di farla ubriacare? Straniera. Ma sì. Ho parlato ora del cinghiale, però io... Cinghiale la stendo. Però tu, cinghiale la stendo. Io partirei con una zuppa di cavolo che... La zuppa climate change. Ci va leggero, ragazzi. Eh? Hai voglia dopo la vuoi farla scorreggiare tutta la sera. Che bell'ambientino che crei. La tattica, no? Così si vergogna a uscire. Così si vergogna a uscire e resta in casa. Vabbè, però che di solito noi la zuppa, oltretutto, si mangia... diciamo con una grattata di cipolla fresca sopra, quindi beh, se la mangiate in due morite insieme. Comunque, visto che l'ha citata, adesso ci facciamo raccontare come la fa, perché è interessante. A me il cavolo piace, cavolo verza o cavolo... Ah, ti vedo esperto già. Vabbè, la verza è una cosa che noi lombardi utilizziamo moltissimo, è molto buona, quella da cui deriva il crauto. Mia, si vede che c'è un po' che ci separa. Già, povero Po', inquinato, povero Po', maledetti cani bastardi che meritate la morte, guarda. E pensa che non è ancora dalle parti di Milano il Po', sennò pensa che... Dai, davanti a me un esperto, quindi. Vai, che cavolo è, infatti? Che cazzo di cavolo è? Un cavolo, dai. Cavolo, sempre cavoli. Cavolo. No, cioè, e quindi... Nel senso, si soffringe il tutto con cipolla, tagli a pezzi, tagli le foglie, le fai a pezzi. No, prima fai il soffritto, chiaro. So, ok, soffritto di cipolla. Cipolla. Aggiungi cavolo, fagioli. Il cavolo fatto a pezzi proprio, sì, grossolanamente. Sì. E altre verdure. Quindi siamo un bel pentolone, in parella. Bella grande anche. Un bel pentolone, ok. E poi aggiungi, in pratica, prima togli l'acqua. Altre verdure tipo? Domande complicate. Io mangio, non cucino. Come tu mangi? Cucino giustamente, avendo come fidanzata una ragazza del sud, ha subito appreso i costumi locali, lui mangia e lei cucina. Come dovrebbe essere. Va bene lei, però noi vogliamo sapere questa storia del cavolo. Allora, il cavolo soffritto insieme ai fagioli, altre verdure di stagione. Sì, zucchine. Quindi aggiungi l'acqua, come una zuppa, diciamo. E poi credo che si toglie l'acqua e aggiungi il pane e poi riaggiungi l'acqua fino a fare un composto, diciamo, compatto. Un pane raffermo, pane fresco? Raffermo. Ok. Bene. Poi metti in una teglia, diciamo. Sì. E fai raffreddare. Allora, mangi freddo? Sì, si mangia freddo. Con la grattugiatina di cipolla. La grattugiatina di cipolla è una meraviglia. Giulio, cosa ne dici? Tu la fai sempre la tua ragazza, questa storia. La grattugia di cosa è terribile. La grattugia di cipolla fresca. Ma io adoro la cipolla, però. Sì, ma figa, fresca. Grattugiata sulla zuppa, non l'ho mai sentito. Grattugiata. Non viene neanche la parola. Col coltello. No, certo, però io ho l'idea di grattugiare la cipolla. Cioè, non mi viene neanche la parola, tanto deve essere. Il risultato un po' d'aglio, no? No, l'aglio fa puttare l'alito. Scusami, ne ho dimenticato. Però il tutto si accompagna con un bel fiasco di vino. Ok, questo ci siamo. Dai 14 ai 15 gradi, quelli leggeri delle vostre parti. E 14 ai 15 litri, anche. E per mandare giù quella roba lì, mi sa che te ne servono comunque, perlomeno di liquidi. Cioè. E l'antipasto è fatto. Poi, poi muori. Poi cominci. Poi. Non accendi la luce perché se no comunque fa contatto e qui nella stanza apri la finestra. Esatto, comunque. Esatto. Apri la finestra perché adesso è un po' pericolosa. Poi con un bel cinghiale con le olive, cinghiale in umido con le olive. Che buono. Come si fa il cinghiale in umido con le olive? Ma siamo sicuri che la tipa te la dia dopo che gli ha fatto la zuppa col cavolo? È morta. Dopo che ha bevuto 15 litri di vino. Vedo che sei entrato in clima. Bravo. Più capace di intendere di volere. Ma poi comunque è molto malizioso perché, come dicevo prima, la tipa ha l'alito che puzza, si vergogna, non esce. Ah, è vero, anche quello c'è. Ta-da! Non può uscire. Non può uscire. L'alito. Non può uscire. Eh già. Maliziosi sti toscani, furbetti. No, ma il poi gli gestisci meglio anche la posizione, diciamo. Il cinghiale in umido, io voglio sapere come faccio. Come mi fai un cinghiale in umido, perché qua il cinghiale non lo trovi. Vai in collina e ammazzi il cinghiale. Vai in Ardenne e ammazzi il cinghiale, porti il cinghiale a Bruxelles e poi va sgozzato il cinghiale, se no lo viene lo sgozziamo. Quale parte si prende il cinghiale per farne il... Si usa tutto, è come il maiale. Va bene, perfetto. Cioè, il detto, non so. è spezzativo. Del maiale non si butta via nulla. Esatto. Ma allora, o come della maiala non si butta via nulla. Mai. Guarda che è vero. I veri diciamo, tomber de femme sono come i grandi goleador, non quelli che cercano il gesto atletico, ma quelli che esulta per un gol a 2 centimetri dalla porta, buttato dentro con forza quando bastava semplicemente soffiarci contro quella palla. Esatto. Ma è quello. Sono quelli più belli, no? Sì, quello che fa la differenza tra il goleador e quello che giochicchia, quello che vuole il gesto di alta classe per essere ricordato. Però a chi piace più l'artista, cioè a chi piace più il goleador. A una squadra servono entrambi. Poi certo, è una squadra dell'Inter dove sono tutti goleador e anche artisti, vero? Esatto. La mia squadra non sono mica tutti in Valle di Bocino. Che disgrazia. Sarebbe anche bravo questo ragazzo, ma è sempre infortunato. Sarebbe, esatto. Sarebbe anche bravo. Nel 95. È sempre infortunato. Sto cingando i allora, si così. Insomma, in pratica, lì? No, in pratica prima si spezzetta, come uno spezzatino in pratica. E di solito si mette le carni dentro il vino per farlo ammorbidire. Giusto. Per quanto tempo? Così. Finché sono morbide, un giorno. Va bene. Nel frattempo, un soffitto con un battuto di verdure. Ok, e niente. Poi dopo aggiungiamo il tutto. Un po' di vino per farlo cuocere? Anche ancora? Anche il vino. E aggiungiamo naturalmente le olive col nocciolo. Perché sennò. Nere o verdi? Nere. Io volevo sponsorizzare le olive greche, che in questo momento in Grecia ha bisogno di soldi. È vero, sponsorizziamo le olive greche. Sono verdi, grosse, buone. Sì, sponsorizziamo, anche perché comunque la caduta della Grecia la pagheremo tutti noi, quindi certo. Sponsorizziamo le olive greche, ma non scordiamoci. Chiamo Papandreo e Papa Costantino. Ma non scordiamoci. Con nomi del genere si merita solo una mano. Si mettono molte, anche più di una. Esatto. Faccia. Dove però? I greci potessero, penso che adesso. Sono riusciti a tenersi nascosto questa cosa per molto tempo. Sono bravi. E adesso se la prendono con noi. Hai visto cosa hanno detto? Ah, la Germania non ci ha pagato i debiti del 1943. Ah, ma l'Italia anch'essa c'ha questi buchi. Dai, ma anche spezzare le rine alla Grecia, chissà che disagio. Esatto, comunque, ragazzi, io fossi voi penserei cazzacci vostri. La smetterei di insultare gente che vi sta tentando di aiutare, a prescindere dalle nostre condizioni. Che sono quelle che sono. La Rotta ha mai chiesto sussidi comunitari del Fondo Monetario? È mai stata condizione greca? Non penso. L'economia della Rotta qual è? C'è un'economia alla Rotta? Dipende da Pisa. Se leggi proprio la storia anche dei fischi della Capanelle, era basata sul quindi c'è una storia sui mattoni, perché mattoni, avevamo due fornaci alla Rotta. Due fornaci alla Rotta. Non ce ne sono più adesso? No. Ci sono i resti. Ora archeologico, sono dove fanno ancora i forni in modo artigianale e gli esperti sono pronti. Ma però c'è un municipio, un sindaco, è una frazione. Quindi penso che avevamo anche carabinieri, poi li hanno tolti. Il maresciallo l'ha puntato, che se andavano a prendere quelli di paese. Beh, sono quei carabinieri belli, però quelli sono no. Sì. Posso parlare anche male, tanto non ci sono più. Aveva un maresciallo favoloso che... No, ma infatti me lo immagino. Era ubriaco tutte le sere. Che conoscono tutti. Sì. Oh, ti ho visto, sei passato con Rosso, questo costerà un salame e una spezzatina. Ma se le offro una bottiglia di vino, ma sì, dai. Domani vieni con i tuoi genitori in caserma. C'era maresciallo, la vera polizia di cui sentiamo tanto la mancanza. c'era maresciallo e appuntato, quel maresciallo che stava seduto nei giorni calci, diceva: appuntata, apra quella porta. Però la chiesa la Don Camillo ce l'avete? Sì. Perché avrete il Peppone, sarà sindaco nella città grossa, però il Don Camillo ce l'avete. Sì, ora però è africano il prete, quindi. Cosa? Fantastico! Ma siete dei grandi! L'abbiamo importato alla Francia. Siete dei grandi! Cioè, è nero? Sì. Ma no, però, è un africano, ex africano. Marocchino, no, loro non sono tanto cristiani. Però ci c'erano, ma li hanno mandati tutti. De gustibus. Bello, bravi, molto bravi, non ci sono mai stati episodi spiacevoli. Il senso? È stato ben accettato. È stato sempre ben accettato, anche dalle vecchiette del paese. Sai, già nel silenzio della confessione, il buio del confessionale, ti vedi uno, poi spaventati di niente. Esatto. Oddio, qualche voce in giro è stata messa, però... però niente mai, niente mai. Ecco, ecco, allora la rotta è esempio, quindi veramente appuntamento alla rotta, esempio, sosteniamo la rotta. La rotta, la rotta come nuova sede del Vaticano, assolutamente. Vabbè, ora penso sia normale perché preti autoctoni penso stiamo scomparendo. Beh, io di preti neri non ne ho ancora visti nella mia città, che è una città di 2 milioni di abitanti. È il secondo, c'erano, ma li hanno ammazzati, li hanno andare a casa. Il secondo, il secondo. Sì. Ah, bravo. E parla italiano bene? Sì, sì, più o meno. Più o meno. Vabbè, parlerà più latino. Bravo, comunque, beh, è un sbobisco, non è che... Esatto, esatto. È una bella cosa, guarda. Io allora comunque sponsorizzerei comunque la rotta per una meta per vacanze estive. Porterei Maroni e... Sicuramente, quindi a questo punto, bella, se siete in Toscana, volete fare un giro per l'Italia, non mancate alla rotta in agosto con la festa dei campanelli, la cultura del mattone. Cultura del mattone, il prete nero che vi dà la comunione. La comunione. Non capita, ma manca una cosa fondamentale di cui... Aspetta, eccola. C'è una cosa ancora più fondamentale? Che manca. Vai. Dai, l'argomento di oggi mi sembra che... un po' di figa? Sì. Ah, com'è la figa della rotta? Non c'è. Ecco, non c'è. Non puoi avere tutto, hai un prete nero, hai mattoni, e bella figa, giustamente, è a Pisa. Scarseggia. È scappata. Sì. Cioè, tra media 65 anni. Questo lo sapevamo, però almeno quelle non sono buone, no? Giacomo, ma non è che sei carofila, ma non io, io per i turisti, io sto sponsorizzando, io sono fino a casa, a me non interessa, però sai... Senti, vogliamo convincere la gente ad andare, e l'ultimo tocco è proprio quello. Quello. Sa, se sei un... Niente. Un bomber, un tromber de femme. Esatto, comincia a fare. Tromber de femme vero, se ne frega. Se la ragazza è carina, se ci sei, va, è importante. Via, via, via. 20, 40, 60. Riguardante è veramente... Cioè, niente, coetanei tu e... Non ce ne sono. Sì, ma sono fuggite, quindi... Ho fuggito, cambia. Quindi avete questo grande network di rottigiani in giro per il mondo? Chi a Sydney, chi a Bruxelles, chi a Pontedera. Chi a Pontedera, chilometri. Cioè, quindi scomparirà la lotta prima o poi? Non credo, perché i vecchi rimangono, quindi... Ma muoiono. E non mollano. No, non muoiono. Beh, ma prima o poi... Mollano. Con tutto l'affetto che posso provare per i vecchi della lotta, che salutiamo. Gli auguriamo di vivere almeno... Sì, altri 150 anni. Di sopravviverci altri almeno. Altri 150 anni. Assolutamente. Però prima o poi, cioè voi, no, è compito voi, anzi richiamo i giovani di La Rotta a ripopolare La Rotta, a ripopolare La Rotta. Tu vai insomma con la tua ragazza, andate là e cominciate a fare, e gli dite là, basta questa Bruxelles, basta queste boiate, basta questo anche cielo plumbeo, dov'è che è Potenza, Caltanissetta, Cosenza, sei passato da una regione all'altra, non importa, ma noi adesso amiamo solo La Rotta, quindi noi vogliamo che La Rotta venga ripopolata. Tra l'altro i miei genitori vanno in estate in Toscana e insisterò affinché vadano a visitare La Rotta, esatto, in agosto per la festa dei fischi delle campanelle, esatto. Ci facciano spiegare bene come sto mattino regionale viene fatto. Insomma, più che altro, come arrivare alla rotta? Come arrivare alla rotta? Chissà se il GPS la riconosce. Altra domanda. Quindi la rotta ti risponde: la rotta in culo sarà tua sorella. Anche il GPS ti insulta. Maledetto bastardo, non fare lo spiritoso. Sarò una macchina, ma comunque capisco gli insulti. No, una campagna per ripopolare la rotta. Giovani, tornate alla rotta, perché la rotta ha bisogno di voi. Se non siete mai stati, andateci. Quindi rimaneteci per sé. Andateci per la festa dei fischi del campanello, resterete innamorati, imparerete a fare il mattone artigianale. Sicuramente da tutto il mondo. No? Esatto. Tutto il mondo. Da quanto devi stare al mare la rotta? 30 km. Dai, allora perfetto. È perfetto. La Pisa? Perfetto. 25. Cioè, è una bella città, per quanto voi odiate, però comunque è una bella città. Firenze 45. Un'altra bella città. Allora, dai, ci sono i denti collini, quindi fa bello caldo, ma non troppo, fresco, ma non troppo. In pace, nessuno ti rompe le palle. Ci mangia, si beve. Il caldo si affoga l'estate. Vabbè, questo diciamo lo scopriremo. Lo scopriranno loro. Le loro spese. Però 30 km sono al mare. Zanzare grossi come il Rondi. Ma non pensare che nel paese le zanzare parlano un paio di lingue più di me in certe zone d'Italia. E dicono forte Inter. Forza, vengono anche allo stadio, paiono il biglietto, tanto sono grossi. Oh, tu dove credi di andare, Zanzara? Fai la fila come tutti gli altri. Extracomunitario, fuori. E quindi, insomma, comunque ripopoliamo la rotta. Ripopoliamo la rotta. La rotta ha bisogno di essere ripopolata, esatto. Quindi appuntamento ad agosto per la festa dei fischi campanelli, noto anche come il carnevale di Rio La Rotta. Esatto. Il famoso carnevale di Rio La Rotta. sull'Arno, giustamente. Sull'Arno. Sono ballerine, ricchi premi. Le ballerine saranno su una barca che attraverserà l'Arno. C'è anche una scelta di ballerine trans, anche trans brasiliane. Custibus per tutti. Per tutti. La rotta a tutto per tutti. La rotta a tutto. La rotta assolutamente. A qualsiasi cosa voi possiate minimamente immaginare. E la famosa zuppa di cavolo grattugiata. Tocco di classe. Per concludere, meno una bella vacanza gioiosa. No? Però, sì. Beh, concluderla svenendo, cioè concludere entri che boh, concludi una digestione dai 7 ai 15 giorni. No? Vabbè, ragazzi, dobbiamo concludere anche noi. La fase sparaccattata siamo arrivati alla conclusione. Vogliamo ringraziare di averci fatto scoprire questo paese, che altrimenti non sarebbe riuscito a scoprire, ma neanche lontanamente, di cui non mi dimenticherò. Pensa che sa quante volte su Wikipedia ho visto la rotta, ma non ho mai voluto approfondire. Già, grazie, Lorenzo, stasera. Grazie a voi, Lorenzo. Ringraziamo, è stato un piacere averti qui con noi, ti invitiamo ad ascoltarci, a seguirci, a tornare quando vuoi, a portarci la tua ragazza. Ascoltaci, facci ascoltare, se hai degli amici chiaramente possono scriverci al nostro indirizzo radiamo.centocitta@gmail.com. Ma abbiamo fatto quella roba lì che volevamo fare? No, abbiamo fatto un cazzo. Non fatto niente. Ma la nostra fama ci precede. Ah, la roba di Facebook che dicevi tu l'altro giorno. Adesso io devo trovarci il tempo, Giacomo. Appena ci trovo il tempo, prometto che la faccia. Comunque l'appuntamento è sempre ogni giovedì, chiaramente 101.9 alle ore 20, il telefono 02452656 durante questa ora, radiamo.centocitta@gmail.com e il nostro blog è radiamo.blogspot.com. Non ci siamo solo noi, ma ci sono un sacco di bei programmi interessanti. Assolutamente, dopo di noi siamo Giulio di Boa. Dopo di noi c'è Giulio di Boa, esatto, restate con noi e soprattutto se volete il numero di telefono del parrucchiere di Giulio, no, il mio il mio non vale niente, potete sempre farvi vivi, noi vi faremo sapere. Giulio, ti saluto. Ciao belli capelli. Salutami tua sorella. Ecco Giro di Boa. Giro di Boa è in regia. È in regia, quindi possiamo giustamente, come dire, levarcene con la scelta a posto. Levarcene ai coglioni. Giustamente così. Fra, grazie. Giacomo. Lorenzo. Grazie a voi. Buona rotta allora. Un saluto dal vostro affezionatissimo Jack. A giovedì prossimo. Ciao.